Un'altra radio. Un cordiale e ormai consueto buon momento a tutti. Spero che vi siate ritagliati questo momento della giornata per fare qualcosa di bello, altrimenti proverò io a rendere questo momento più bello. Infatti sto facendo una cosa bellissima, sto ascoltando musica e ovviamente ve la sto proponendo. Ma quanto mi piace immaginarvi lì, con il vostro capoccione che si muove a destra e a manca, ma quello che più mi piace è incasinarvi la testa. Io sono DJ Brontolo e, se ancora non l'avete capito, questa è un'altra Radio Roma. Loro sotto la mia voce invece sono i Guidanze con Selor, con la loro Bad Love. Buon ascolto. She took care of me, me, me. Che potenza questi GOTO-AT con la loro spill. Bene, passiamo da elettronica a elettronica grazie a Free Music Archive. Adesso ascolterete Vicnet con la loro SMS. We'll be right back. It's not so simple with your drugs. Bene, direi che siamo partiti a bomba. L'ultima traccia era dei JJM con la loro Nihilist. Adesso però ci appiattiamo per alcuni secondi verso il basso con Vulpina e Jumbo Star e la loro Design. Thank you. One, two, three, four. Sit down, I want to talk. She said, Charlie, there's one thing that I want you to understand. She was woman and I was boy. She said, I like you and I respect you and all that, but I don't love you, I don't love you. I don't love you all love, all faith, all hope, all gone. But damn the silence and damn my eyes. But I can see the beauty of a woman that I never had. And I knew, yes I knew, there are certain things in life that I would just never have. All love, all faith, all hope, all gone. Someone who thinks that love will always come out right. But I knew, yes, I knew, certain things like a loving home and a happy family I would never have. All love, all faith, all hope, it's all gone. All love, all faith, all hope. Molto, molto bene, Free Music Archive ci continua ad omaggiare di bella musica e dopo i Vulvini e Jumbo Star abbiamo ascoltato i Mattress con la loro Survive e subito appresso appresso a seguire Charlie Pickett con All Love All Gone. Ed è sempre Free Music Archive a darci la possibilità di apprezzare Beer Bottle Blues di El Jagador, ma soprattutto a stupirci con il Diablo Swing Orchestra. Sentite che robetta la loro Poetic People Revolution. Never had a soul. Don't walk over to Veramente impressionante questo gruppo svedese. Vale la pena ripetere il loro nome. Loro sono i Diablo Swing Orchestra. Dopo un loro primo ascolto sicuramente vi verrà voglia di ascoltarlo un'altra volta, perché il loro debut album risulta pieno di musica libera e svincolata da qualsiasi schema, ma nel frattempo è ricca di personalità e tecnica. Loro toccano diversi generi, mi sembra di percepire delle sonorità jazz, ma soprattutto si percepisce chiaramente dell'opera italiana, del flamenco ad esempio e della musica orientale tibetana. Veramente impressionanti, ripeto, DJ Bruntolo ve li consiglia. Diablo Swing Orchestra. A questo punto vi proporrei l'album tutto d'un fiato, ma avrò occasione di farvi sentire nuovamente i Diablo Swing Orchestra. Ora andiamo avanti con gli Ape Clones, con la loro IHC. A seguire poi The Air Shark. Lo so, ve l'ho proposto in tutte le salse, ma a me piace molto e quindi non posso farne a meno. Terrific, yeah, it was just good to go off to a good start. Using the football cliches here, but no, it was excellent, yeah, the kids were really up for it, so. nuovamente ci stiamo avviando verso la fine di questo podcast, quindi molto rapidamente vi propongo altre due tracce. Una è degli All My Fools e la traccia si intitola Forget Me, mentre la seconda è President Pacifist and Auto Restorer e dei Finn Ringins. Sur la beauté di Dieu, j'en ai assez dit, bien qu'il reste encore beaucoup à dire. Il me faut parler maintenant de la vertu des roses. Yeah. the cracks between your book for a sheep, a soldier, a saint, an ocean explorer, a president, a pacifist, and not a restorer, and it's alright. And he don't breathe no more, cause he settled through the cracks between your book. Bene o male che sia, siamo giunti alle due tracce finali di questo podcast e finalmente posso proporvi la traccia che ha accompagnato la mia voce per tutto quanto il podcast. La traccia in questione degli Ieva e si intitola Coco Stem. E finiremo questo podcast con i Fuck Buddies. Ragazzi, continuate ad ascoltarci e fate sempre i bravini. Ciao a tutti. Of you always as a boy who would hold me tight when I spent weeks away hiding from my dad. Will just be. Do you remember the night we kissed? When he bit me up because I'm just a girl. Radio, Roma.